Pronto, buongiorno, canale 10. Prova microfono, prova microfono, cambio, attenzione, canale 10, col buongiorno. Attenzione, canale 10, cambio. Attenzione, canale 10, attenzione, canale 10. Buongiorno. Chiama, attento Brecco 10. Brecco 10, città di Sassari che chiama. Chiama. Brecco Italia. Attento Brecco Italia. CQDX, Brecco Italia. Attention, do you copy Italy? Attento 10, c'è qualcuno su 10? Attenzione, binario 10, cambio passo.